tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale e partiamo dal famoso caso Bossetti di Bergamo, dove sono emerse compromettenti intercettazioni contro il defunto cappellano del carcere di Bergamo, che probabilmente sa molte cose e non le ha dette, come risulta dalle intercettazioni. Poi a Cislago, nel Varesotto, dimenticata la reliquia di Sant'Abbondanzio, crollano le richieste per portarla in famiglia a pregare. Il coronavirus spaventa tutti i fedeli, quindi non tutto il male viene per nuocere. Strage al convento di Tortona. Sono 5 le suore rimaste vittime del virus. Ecco, tutte le loro preghiere non sono servite a niente. E da Salerno il buffo prete. Il prete sbaglia tasto nel cellulare. La messa è buffissima. Ha messo dei filtri e quindi appare dire la messa con tutta una serie di abbigliamenti stranissimi. Il prete pedofilo Don Mercedes purtroppo è già uscito dal carcere e quindi, attenzione, era famoso perché era un cellino con molti precedenti per pedofilia. Ricordiamo il mio vecchio studio sulla dimostrazione statistica della natura di classe della Chiesa. Dal secolo IV all'epoca contemporanea, la Chiesa è sempre stata uno strumento politico di dominio sulle masse popolari, costantemente alleata con le classi sfruttatrici. È diventata essa stessa una nuova classe di padroni, grazie ai suoi possedimenti terrieri che in certi stati superavano un terzo del totale della terra coltivabile. Dal secolo IV in poi si è sviluppata a Roma una vera e propria alleanza ecclesiastico-nobiliare, che si è ulteriormente rafforzata nel Medioevo, quando i papi trovarono nell'aristocrazia la loro naturale alleata contro il comune popolare. In certi periodi storici, i nobili romani hanno disposto del papato come di una proprietà privata, facendo e disfacendo i pontefici. Basta pensare alle casate dei conti di Tuscolo, 4 papi e di Segni, 3 papi, passandoselo talvolta da zio a nipote. Comunque i secoli in cui fu più accentuato il dominio e il monopolio nobiliare sul papato sono quelli del 600 e dell'800, con il 100% di papi nati da famiglia nobile. Leggiamo poi i misfatti clericali dal mio calendario anticlericale, appunto, di Pierino Marazzani, dal 30 marzo a domenica prossima. 30 marzo 2015, processato a Roma Don Vito Beatrice, prete pedofilo che aveva violentato un ragazzino. 31 marzo 2017, ancora accuse contro il vescovo di Mazara del Vallo, Trapani, abuso d'ufficio e truffa per ben 3 milioni di euro. Accadde nel marzo 1724, ben 350 schiavi sono adibiti a remo sulle galee pontificie. E non c'erano volontari, il papato voleva risparmiare, quindi usava gli schiavi anche comprandoli. 1 aprile 2017, a Ferrara prete ubriaco investe agente, arrestato dopo inseguimento. 2 aprile 1548, decreto della Repubblica di Siena, confiscati i libri eretici su istigazione del clero. 3 aprile 1943, il primo ministro filofascista ungherese Nicola De Calla è ricevuto in Vaticano da Pio XII. 4 aprile 1297, l'Inquisizione di Verona procede alla vendita dei beni sequestrati agli eretici locali che erano in buona parte catari. 5 aprile 823, Papa Pasquale I coinvolto come mandante nell'omicidio preceduto da crudele sevizie di 2 alti funzionari pontifici. Diciamo poi dal mio libretto Piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale la definizione di agnosticismo. Agnosticismo, opzione filosofica che giustamente ignora tutto quanto sia al di fuori del metodo scientifico sperimentale e in ogni modo non dimostrabile. Agnostico, termine meno aggressivo di ateo, nome meno determinato e compromettente. Allora, chi vuole contribuire o mandarmi qualche segnalazione sul notiziario anticlericale può telefonarmi al 331 730 2874. Saluti dal Circolo Giordano Bruno.